i ricordi persi dentro a un sogno. In camera la mia anima scala magica. Sento ancora l'odor di sabato, notte magica.